scherzi il viso con le tue mani, i tuoi occhi accesi esprimono gioia. Sento la tua voce e mi emoziono, piccole parole ma quanto amore. L'arcobaleno di sensazioni che mi regali è un grande tesoro che splende dentro te, dentro te, dentro te. Grazie al grande